Radio 24 Reportage. Rifugiati da Lampedusa alle Alpi di Alice Cason. Facciamo un attimo con dialogo. Mi scusi, per favore, c'è un mese che va in centro. Sì, CI autobus 61. In piena estate la scuola di Trichiana è aperta. I bambini del comune bellunese probabilmente sono al mare, mentre in una delle loro classi 5 maestri volontari stanno facendo lezione di italiano a 21 ragazzi africani. Sono profughi. La provincia di Belluno da qualche mese ospita 112 profughi scappati dalla guerra civile in Libia. Sono distribuiti in una decina di comuni in attesa di sapere se la loro domanda di protezione internazionale sarà accolta. Nel frattempo non possono lavorare, quindi giocano a calcio e imparano l'italiano. Mi chiamo Yusufu e vengo dal Niger. Io ho 21 anni. Faccio l'ambiacchiano, l'ambiacchino. 5 anni a Libia, 5 anni. Mi piace il corso italiano perché io parlerò. Imparo a parlare italiano. Mi chiamo Rashid, vengo dal Sudan. Sono nato in Libia, studente in high school, businessman. Mi chiamo Rita, mi piace giocare a calcio, leggere, guardare le televisioni, mi piace suonare piano, Beethoven, Chopin, ascoltare, faticoso suonare. A parte una ventina dal Bangladesh, tutti i profughi sono africani, emigrati in Libia per lavoro. A Trichiana ce ne sono 4, come racconta il sindaco Giorgio Cavallette. I due del Burkina erano a lavorare in Libia, hanno dovuto riportare le loro famiglie in Burkina perché c'erano le avvisaglie di guerra civile, quello che poi si è verificato. E quando sono tornati, i miliziani di Gheddafi mi raccontavano che li hanno presi, spogliati di tutti i documenti e di tutto quello che avevano, li hanno caricati su una zattera e li hanno spediti in Italia. Gli altri due invece del Sudan mi raccontavano che non potevano girare per strada, non potevano andare da nessuna parte perché c'era sempre il rischio di non tornare più a casa. Per questo che sono scappati. Secondo l'Agenzia ONU per i rifugiati, dall'inizio dell'anno a metà giugno sono sbarcati in Italia quasi 19.000 profughi della Libia. In febbraio è stato dichiarato lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale per tutto il 2011. L'Italia ha richiesto l'assistenza di Frontex, l'Agenzia europea per i controlli alle frontiere. Dall'inizio dell'emergenza quasi 15.000 migranti sono stati assistiti in strutture individuate dalle regioni. 1.400 persone sono state dirottate in Veneto. Maria Laura Simonetti è il prefetto della provincia di Belluno. Sono tutti qua perché hanno richiesto lo status di protezione internazionale, quindi sono in attesa di esame da parte della commissione a Gorizia. Possono ottenere il riconoscimento dello status di rifugiato oppure una protezione sussidiaria, quando si teme che, pur non avendo titolo a protezione internazionale, tornando in patria potrebbero subire un grave danno alla persona. In molti casi non sono partiti per venire in Italia, sono stati letteralmente imbarcati e spediti in Italia. Sarà una libera scelta loro permanere nel territorio, andare altrove, però ovviamente con un titolo, se nel caso in cui vengano riconosciuti, che gli consentirà la libera circolazione in quanto protetti dalla Convenzione di Ginevra e da altre normative in materia. I profughi non possono lavorare. Per gli abitanti di Trichiana e di Taibona Gordino questa è forse la cosa più difficile da comprendere e da accettare, come spiegano i loro sindaci. Per il momento sono né carne né pesce, nel senso che fino a quando non viene stabilito effettivamente il loro status, tutto ciò che fanno lo fanno come prestazione di volontariato. Stanno facendo piccoli lavoretti in casa di riposo, stanno tagliando l'erba piuttosto che verniciando i balconi. All'inizio erano tutti subbuglio. Adesso invece hanno visto che sono dei ragazzi molto tranquilli e quindi si chiedono cosa faranno questi ragazzi tutto il giorno senza oziando. Non è proprio così. La casa di soggiorno ha una suora che scolarizza questi ragazzi 3 ore la mattina e 2 il pomeriggio. Per ogni profugo ospitato, il gestore del servizio di accoglienza riceve fino a 46 euro al giorno. In realtà i soldi non sono ancora arrivati e arriveranno dopo la firma delle convenzioni stipulate tra i sindaci o i privati e la prefettura. Sono fondi straordinari stanziati dal governo. L'importo dipende dal tipo di prestazione, quindi sono riconosciuti fino a 40 euro o fino a 46 euro. In questa provincia, quindi nel Veneto, il prefetto di Venezia ha stabilito 38 euro per la sola prima assistenza, per capirsi la prestazione alberghiera e basta, elevabile fino a 40 se alla prestazione alberghiera si aggiunge l'assistenza alla persona. Nel 2010 sono state 260.000 le richieste di protezione internazionale in Europa. Un quinto di queste sono state accolte, ma solo da 10 paesi su 27. La crisi del Maghreb, da una parte, ha rafforzato la convinzione di chi in Europa ritiene necessario arrivare al più presto a un sistema comune d'asilo. Dall'altra, ha suscitato in alcuni paesi il desiderio di intensificare i controlli ai confini interni, nonostante Schengen. Nel Consiglio europeo del 24 giugno i capi di Stato e di Governo dell'Unione hanno parlato sia della possibilità in casi eccezionali di reintrodurre temporaneamente i controlli alle frontiere interne, sia della necessità di portare a termine il sistema comune d'asilo entro il 2012, come previsto dal programma comunitario di ordine pubblico di Stoccolma. Ci sono delle direttive europee che richiedono un minimo di uniformità nel territorio, cioè le normative del territorio sono ispirate alle direttive europee. Ovviamente ogni Stato le ha recepite in un determinato modo, questo può essere, diciamo, un ostacolo all'uniformità totale. In tema d'asilo, il filo conduttore a livello europeo è stato ridurre quanto più possibile la differenza tra le diverse procedure nazionali. La normativa italiana in materia recepisce diverse direttive europee, le più importanti delle quali tra il 2003 e il 2005 hanno definito gli standard minimi dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale e le norme minime per l'attribuzione dello status di rifugiato e per l'efficacia delle procedure. Oltre alle tutele previste dalla Convenzione di Ginevra, acquisito lo status, i cittadini stranieri potranno ovviamente essere coinvolti in percorsi di integrazione, entrare nella rete del sistema di protezione dei rifugiati politici, che è lo SPRAR, il quale prevede percorsi ad hoc di agevolazione per l'inserimento ovviamente nella società, con fondi europei, fondi europei. Nicola De Stefano è il capo gabinetto della prefettura di Belluno. L'Unione Europea quindi non solo influenza le politiche nazionali sull'asilo, ma sostiene anche finanziariamente gli stati membri per accogliere i rifugiati. Il Fondo Europeo per i Rifugiati ha un budget di 700 milioni di euro per il periodo 2008-2013. In Italia cofinanzia progetti complementari allo SPRAR, il Sistema Nazionale di Protezione dei Richiedenti Asilo e dei Rifugiati. Nel bellunese ancora non è attivo nessun progetto di questo tipo. Non è un caso, non sono molti profughi nelle Dolomiti. 4 dei 112 ospiti bellunesi sono finiti a Zoppè di Cadore. In paese vivono meno di 300 persone e in giro dopo pranzo non c'è anima viva, tranne alcune ragazzine che giocano a ping pong in un garage. Cosa pensano la gente? Chi pensa che desti qualche la ruota? Beh, non penso male, perché... Ma quelli che ho sentito io. Se tipo la gente ha provato ad aiutarli magari dandogli i vestiti o... Sì. Cioè loro salutano tutti, sono socievoli. Insomma. Vanno a scuola. No, non raccontano tanto, se non gli chiedi loro non ti dicono niente. No, ma il nome, quanti anni hanno e... Se sono andati a mangiare, roba così, parlare qualcosa. I ragazzi parlano praticamente solo la lingua del Mali. Iva Rossini, maestra in pensione, sta cercando di insegnare loro l'italiano. C'è uno quello che conosce bene il francese, lo conoscono così, imparato mentre lavoravano, probabilmente come fanno i nostri gelatieri in Germania con il tedesco. Comunque in qualche modo si riesce a comunicare, facendo una fatica enorme a stabilire un rapporto. Dico la verità, quando hanno detto che arrivavano 4 neri, io sono rimasta un po' perplessa, perché di quel paese siamo così in pochi. Pensi sempre che quelli che vengono da fuori siano, non so, vengano a portarti via qualcosa quasi. Dopo averli conosciuti, io ho soltanto sempre detto bene di loro, perché hanno quelle piccole gentilezze, non so. Eccetera. Va bene.